Mix 24 di Giovanni Minoli. Buonasera, sono Marcella De Palma e ho fatto per anni l'inviata televisiva. E da stasera starò qui con voi per condurre Chi l'ha visto. Questo è un impegno che mi emoziona, ma che spero di affrontare bene con il vostro aiuto. Marcella De Palma, scomparsa l'8 marzo del 2000, prima di essere stata la popolare conduttrice di Chi l'ha visto, è stata per tanti anni una grande inviata di Mixer. Per ricordarla abbiamo scelto delle sequenze sicuramente straordinarie realizzate da Marcella. Dai covi dell'Aspromonte all'ex Jugoslavia bombardata dalla guerra, al Kazakistan devastato da 40 anni di esplosioni nucleari sovietiche, Marcella De Palma ha saputo raccontare i drammi della cronaca, le guerre vicine e le tragedie lontane. Noi vogliamo capire il mondo con gli occhi degli inviati e oggi con gli occhi di Marcella De Palma, e per farlo abbiamo scelto due dei suoi reportage più coraggiosi. Nel 1996, a 10 anni dalla tragedia di Chernobyl, Marcella torna nella città fantasma per documentare le condizioni del sarcofago, il reattore numero 4. Siamo all'entrata della centrale nucleare di Chernobyl, dove sono attivi ancora due reattori. Qui la parola d'ordine è sicurezza. Appena entri ti danno eleganti dépliants che raffigurano la centrale fra i fiori. Tutto in ordine e pulito, c'è sempre qualcuno che rivernicia. Tutto è asettico. Ci spostiamo per andare più vicini al reattore 4 e al sarcofago. Eccolo, il sarcofago. Qui la radioattività è veramente molto alta, per cui possiamo stare non moltissimo. Questo è il sarcofago. È una struttura di circa 70 metri d'altezza. Per costruirlo ci sono volute 300.000 tonnellate di cemento e 100.000 di copertura. Qui invece siamo all'interno del sarcofago. Il sarcofago è una struttura che avrebbe dovuto tenere perlomeno 30 anni, ma sta cedendo prima del previsto per le condizioni che ci sono all'interno. Nello spazio sottostante ci sono decine e decine di stanze, ora invase da combustibile nucleare che, colato giù dal reattore, si sparge come un'enorme stalattite di consistenza ceramico-vetrosa. Sì. Guido Ceronetti scrive sulla stampa: per ricordare la peste di Chernobyl e le sue caterve di morti sconosciuti, ci vorrebbe un disperato affetto, una furente appropriazione di pene ed altro, un assurdo, motivato amore dell'umanità. Noi forse questo non siamo capaci di farlo, ma possiamo solo per questa sera recitare quello che gli abitanti di Pripyat hanno scritto all'entrata di quella che era la loro città. I vivi chiedono perdono ai morti. Da una terra contaminata dall'esplosione nucleare all'orrore della guerra civile. Un anno prima, nel 95, Marcella De Palma, unica giornalista e unica testimone, entra nella prigione di Gitarama in Ruanda, dilaniato da uno dei più sanguinosi genocidi della storia. L'inviata si fa largo nel carcere dove sono stati reclusi migliaia di uomini accusati di stupri, omicidi e mutilazioni. Il documentario che gira ha per titolo Se questo è un uomo. Entrare a Gitarama non è facile. Siamo i primi europei ad entrare con le telecamere. E saremo anche gli ultimi. Dopo di noi non entrerà più nessuno. Il capo della sicurezza ci farà un lungo discorso. Ammette che quello che vedremo là dentro ci lascerà sconvolti. Che là dentro c'è troppa gente. Ma ci ricorda che sono detenuti accusati di genocidio. E cioè colpevoli dei massacri, dei morti nelle chiese, dei morti nei fiumi. E conclude dicendo: tenerli lì dentro vuol dire anche proteggerli. Recentemente ce ne sono stati alcuni liberati dalle commissioni e quando sono usciti la gente si è ribellata e li voleva uccidere. Dal rapporto ONU del commissario per i diritti umani in Ruanda, visita del 31 marzo 95. La massa umana dei prigionieri è così fitta che è stato impossibile circolare all'interno della prigione. Entriamo. La porta si richiude alle nostre spalle, siamo in 5 italiani, noi e la Caritas. I soldati qui non entrano. Cortile esterno, prigione Gitarama. La prima denuncia sulle condizioni di Gitarama di Amnesty International nel marzo 95. Segue un dettagliato rapporto di Médecins Sans Frontières che ha seguito l'evoluzione della situazione da settembre del 94 a maggio del 95. Il rapporto è sconvolgente e Médecins Sans Frontières avverte che i dati sulle presenze e sulla mortalità sono forniti dalla direzione carceraria, quindi possono non essere precisi. Prigione Gitarama, struttura per 400 persone. A maggio 95 i prigionieri erano 7.000, mortalità complessiva in 9 mesi 902 persone, un morto ogni 8 vivi. Camminare qui è difficilissimo perché è tutto fangoso, si scivola. Un detenuto mi interrompe. Non restate qui, andate laggiù. È tremendo, vedrete da soli. Ci andiamo. Nel cortile della prigione l'aria è già irrespirabile. Il calderone di fagioli manda un fumo insopportabile. C'è gente ovunque. Ci spostiamo verso una porta. Da lì si entra all'interno della prigione, che si sviluppa in tre piani. Anche qui, come a Kigali, c'è un servizio d'ordine di prigionieri, ma la confusione è talmente tanta che non sapremo mai se li abbiamo incontrati o no. La gente è stesa per terra. Camminiamo a tentoni, inciampando, mantenendoci per non scivolare. E ora siamo nella stagione secca, non riusciamo a immaginare cosa può essere questo cortile quando piove per mesi. E qui, chi è dentro è dentro, chi è fuori, lo spazio è un miracolo, i letti, chissà dove sono. Guglielmo ci dice che fanno a turno a dormire e a stendersi ogni 3 o 4 giorni, e intanto si ammalano. Dal rapporto di Médecins Sans Frontières, dati sulla mortalità, sono morti per frattura, il 30%. Nella maggior parte dei casi i prigionieri sono talmente stretti che si rompono le ossa a vicenda o restano schiacciati dalla massa delle persone vicine. Sono morti per dissenteria, il 20%. Sono morti per malattie respiratorie, il 15%. Ma la più tremenda è la malattia dei piedi gonfi. I piedi, gonfi, con la pelle tesa, rimangono a contatto contro il suolo, che è bagnato e sporco, per un tempo infinito. È facile procurarsi delle ferite e delle fratture, che se non sono curate vanno in infezione, in setticemia. Alla fine, l'unico rimedio, l'unica cosa che resta da fare è l'amputazione. Qui non c'è luce, non c'è aria, e quella che c'è è irrespirabile. Respiriamo con la bocca per non vomitare. Ci sono solo 28 latrine per 7.000 persone, 8.000 nel momento in cui la visitiamo. La mente fa fatica a controllare quelle paure che salgono direttamente dallo stomaco e scorrono nel sangue prima di raggiungere il cervello. Ragiono e penso che non ci succederà niente, ma l'impatto è troppo violento. Siamo in due, gli altri chissà dove sono, li abbiamo persi nella confusione, e anche se è stupido penso che sono donna, è diversa perché è bianca. È buio, è tutto rivoltante, è tutto disumano. Guglielmo spiega che sopra le latrine hanno costruito dei giacigli per dormire e c'è anche qualcuno che ci dorme dentro. È giusto, dice, è uno spazio da sfruttare. Qui c'è più luce, siamo al secondo piano, sempre la stessa scala straripante di uomini. All'improvviso si mettono a cantare, è un canto bellissimo. L'emozione stringe la gola. L'inferno deve essere così. Da reportage in zona di guerra di Marcella De Palma a un festival che parla di pace. Don Giuliano Zanchi, direttore del comitato scientifico di Bergamo Festival Fare la Pace, la rassegna che quest'anno ha scelto come tema i muri. Muri che si alzano, confini che si dissolvono. Don Giuliano, si parla troppo di muri e poco di ponti? Purtroppo si deve parlare molto di muri perché ci sono, si parla di ponti come degli auspici, non si possono costruire dei ponti, però se non si disinnesca questo meccanismo di innalzamento dei muri, regolando meglio però le frontiere di cui gli esseri umani comunque hanno bisogno, ed è, come dire, il fenomeno nel quale noi ci troviamo, la dissoluzione di frontiere che pensavamo quelle che garantivano la vita sociale, che stanno in qualche maniera esplodendo. E come scriveva Régis Debray, dove non ci sono frontiere si alzano i muri, e quindi è anche difficile costruire ponti. Senta, la paura è nemica della pace, ma qual è l'arma migliore contro la paura? L'arma migliore contro la paura anzitutto la conoscenza, la comprensione, da cui viene anche, diciamo così, lo sforzo del nostro festival, che si organizza con questa ambizione, cioè più tu capisci le cose, meno ti spaventano, meno ti inquietano, non è che i problemi scompaiono, ma li si può affrontare con più lucidità e con più senso di umanità. Senta, ma quanto la paura è uno strumento per gestire il potere? Beh, questo senza dubbio, c'è un lavoro anche molto certosino e forse persino programmato anche non solo di alcune forze politiche, ma anche di qualche mezzo di comunicazione, del modo, come dire, di raccontare le cose, che calca il pedale, diciamo così, dell'allarme, dell'emergenza continua, cioè ci fa sentire, come dire, come se noi vivessimo in un perpetuo stato di emergenza e di insicurezza. Questo evidentemente è funzionale a generare inquietudine, a generare paura per un certo tipo di consenso, e quindi è certamente un'arma di potere. Grazie Don Giuliano Zanchi, direttore del comitato scientifico di Bergamo Festival Fare la Pace, in programma fino a domenica a Bergamo. E a proposito dei ponti, oggi parliamo di una terra sospesa tra l'Italia e l'Africa. Un'isola limite, Pantelleria. 110 km a sud della Sicilia e 70 km a nord della Tunisia. Un particolarissimo fazzoletto di terra di 80 km quadrati, sul quale nel 1969 sbarca Gabriel García Márquez, che da qui, il 20 luglio, assiste alla magia dell'allunaggio, il posto più appropriato per pensare alla Luna, dice Márquez in un'intervista del 2009 ricordando quel momento. Pensavo con una certa nostalgia premonitrice che la Luna dovesse essere così, ma lo sbarco di Armstrong aumentò il mio orgoglio patriottico. Pantelleria era migliore. Lo racconta Josué Calaciura in Pantelleria, l'ultima isola. Josué, perché l'ultima isola? L'isola più a sud dell'Europa è Lampedusa, ma Pantelleria è l'isola più vicina all'Africa, quindi è davvero a guardia e a confine di due continenti. È come se la frattura geografica fosse anche una frattura antropologica, storica. Ma la bellezza è proprio questa, estraneità all'una e all'altra, nello stesso tempo di questa vicinanza all'una e all'altra. Pantelleria ha circa 7.700 abitanti. Ma come sono gli italiani di Pantelleria? Sono dei grandi lavoratori, perché è un'isola che non ha una sola stagione, ovvero l'estate, con cui si sopravvive, no? Pantelleria è un'isola che ha tutte e quattro le stagioni, perché è un'isola che più che guardare il mare, tra l'altro splendido, guarda verso se stessa. È un'isola fortemente agricola che ha sviluppato sistemi di coltivazioni, soprattutto quelle dell'uva. Pantelleria è famosa per lo zibibbo, un famoso passito. È l'unica cultura al mondo che è protetta dall'UNESCO, perché intanto è assolutamente manuale, non c'è possibilità di alcun mezzo, poi perché ha una pratica, la totale mancanza d'acqua. Pensate, a Pantelleria in media non piove per 300 giorni l'anno, quindi la raccolta dell'acqua, il tentativo in tutte le maniere di risparmiare e conservare il liquido, a volte trova soluzioni davvero geniali, come per esempio per il giardino. Noi lo immaginiamo come una distesa, il giardino, questa invece è una struttura architettonica, direi una struttura mentale, perché è un cilindro tutto fatto pietra su pietra con una tecnica antichissima, con l'estremità rivolta verso l'interno, che convoglia l'umidità notturna del Mediterraneo fino alla pianta, e la pianta è un agrume di solito. Comunque Pantelleria, che ha quindi un'anima estiva e un'anima invernale, e non si congela l'inverno, è diventata l'estate soprattutto un'isola chic. Sull'isola, per citarne solamente uno, Armani ha il suo ritiro ed è anche cittadino onorario di Pantelleria. Ecco, qual è il segreto per cui è diventata un'attrazione chic, appunto? Sì, è veramente l'isola dei famosi. La bellezza di Pantelleria è che tu puoi scegliere l'isola che vuoi, puoi esserci, quindi far parte di questa vorticosa società mondana pantesca, o puoi completamente sottrarti, puoi vivere una solitudine della natura splendida. Josué, un'ultima cosa, Pantelleria o si ama o si odia? Tu la ami? Sì, il primo impatto è difficile, poi ho fatto come i panteschi, ho cominciato a guardarla dentro, questa civiltà della pietra, ma in senso più alto, più nobile, riescono a produrre, a lavorare, a ridare un senso e una nobiltà al lavoro manuale che in Sicilia e gran parte del meridione si è perduto, è come dire fattore di sfruttamento. A Pantelleria no, a Pantelleria è dignità e nobiltà. Grazie Josué Calaciura, Pantelleria, l'ultima isola, la terza. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Alessandra Cravetto. Buongiorno Ale. Di che parliamo oggi e quali suggerimenti diamo alle nostre smamme? Oggi parliamo del tempo. Ah beh, allora. Temone. Quando d'estate arrivi caldo ti lamenti, che solo a marzo stavi lì e battevi denti. Comunque è così, ti lamenti sempre. Certo. Caldo, freddo, caldo. Che ce la fai sol leone. Se invece a luglio è freddo e piove quasi sempre. Tutta lagnarsi pare d'essere a novembre, che si vorrebbe stare tutti in canottiera con 30 gradi pure all'11 di sera. Beh Ale, sono molto contenta, hai scelto proprio un temone. Ti piace? Molto, mi sa che abbiamo un po' finito gli argomenti. No, secondo me guarda, un contenuto ed è un tema veramente importantissimo per tutti. Caldo, freddo, ieri c'erano 40 gradi. Per non parlare delle influenze. Per non parlare delle influenze, soprattutto per non parlare che non sai mai come vestirti. Temone. Altro temone, problemone. Anche per i bambini. Allora, attenzione, perché è il momento di fare il cambio di stagione. Quello è un problema vero. Altro temone. Quello è un altro temone. Altro temone importantissimo. Allora, c'è un'app. Un'app. Le nostre app ci sono sempre per qualsiasi argomento, anche per quelli più difficili. Si chiama Dress Up. Ed è gioco di parole, Dress carino, Up. Carino, eh? Molto. Ed è una specie di armadio virtuale dove tu devi fotografare tutti i tuoi vestiti, le camicie, le magliette, golf, tutto. Cioè, e ogni cosa una foto. Sì, ti vedo benissimo a farlo. Ma comunque. Io lo faccio oggi pomeriggio. Comunque, tu li fotografi. È una cosa facile. Li metti in quei... Sì. C'è chi lo fa, però, per cui... Li metti su iCloud a quel punto. Lo metti su iCloud. Ah, certo. No, non è vero. Comunque, li fotografi. Fammi spiegare questa app, Dress Scusa. Up, ve lo ricordo. Allora, li fotografi, li metti in queste scatole virtuali, che poi sono le stesse... di quelle reali, per cui tu sai che nella scatola 25 c'hai tutte le magliette a maniche lunghe, nella 25 mi raccomando, nella 26 c'hai tutti i gol di lana, nella 31 c'hai tutte le calze, perché finalmente così ti vuoi ricordare dove hai messo quel golf, non devi aprire 25 scatole ma è proprio quello. Ah, oppure ci sarebbe un'altra piccola soluzione, sì, del tipo lasciare fuori un capo che ti salvi sempre. Tipo la classica canotta della salute. Tipo. Che ti salva sempre, caldo, freddo che sia. Esatto. Un po' come a Renzi salva sempre lui. Carlo Calenda. Quindi è stato vice ministro. L'avevamo mandato a Bruxelles. Gli ho chiesto di ritornare indietro da Bruxelles e credo che giurerà in settimana al Quirinale. Quindi, prima era vice ministro con il governo Letta. Sì. Poi l'ha mandato a Bruxelles. Poi però l'ha richiamato da Bruxelles, sì, e ora è diventato ministro al posto della Guidi. Anche male c'è. Cioè, anche Renzi ha la sua canottiera della salute. Calenda va bene per tutte le stagioni. Eh certo, è la Calenda della salute. Esatto. Però ti posso dire una cosa? Mi sa che questa settimana anche la nostra Sora Cesira è in tema. Vedi? Renzi talvolta suscita maldicenze, perché li prende quasi tutti a Firenze, quei suoi amici in più, quei suoi amici in più, perché un amico alle richieste non è mai indifferente, quando di banca lo si fa presidente, perché ha un amico in più, un caro amico in più, e non importa se ci sono detrattori, perché gli amici sono apparecchiati e finché saranno lì seduti, daranno tanti aiuti. E poi le chiacchiere non contano mai, conta l'incarico e se quello non hai, per tutti quanti sei il due di briscola. Se stavi all'estero tipo ambasciatore, mo fai il ministro e pure riformatore. Serve un amico in più, buon amico in più, ed un consiglio non si nega quando c'è ammirazione, specie un consiglio di amministrazione, ad un amico in più, ad un amico in più. E se si è un po' invadito di lei, lei fa il ministro è proprio il minimo, sai, meriterebbe qualche cosa di più, perché è un'amica in più. Può resistere senza svenire pure alla Leopolda. Vorrei vedere te. Ed è un amico in più. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno Alessandra. Allora Pietrangelo, tu sei Dimmi. Appena tornato da Teheran, sì, dove sei stato al Festival del Libro, sì, e quindi io non ti faccio ripartire un'altra volta per farmi portare da qualche parte, però ti chiedo, Dimmi. cosa mi hai portato dalla Persia? Ti ho portato un'allegoria, una favola. Me la racconti? Sì, è la favola delle farfalle riunite in assemblea. Oh, che bello, un'assemblea di farfalle. Sì, volevano conoscere che cosa fosse una candela. E dissero, chi andrà a cercare notizie su di essa? La prima andò a volare intorno a un castello e da lontano, dall'esterno, vide una luce che brillava. Tornò e con parole dotte la descrisse. Ma una saggia farfalla, era lei a presidio dell'assemblea, disse, tu nulla sai. Beh, scusa Pietrangelo, non così saggia questa farfalla, perché in realtà... Tu mi insegni che la descrizione è già una forma di verità. E invece no, l'allegoria è piuttosto esplicita in questo, perché un'altra partì si avvicinò, arrivò sino a urtare nella cera, nei raggi della fiamma fece svoli, tornò, raccontò quello che sapeva, ma la farfalla saggia disse tu nulla più della prima hai conosciuto. Una terza si mosse infine ed ebbra, battendo le ali forte nella fiamma, tese... Si brucia la terza. Tese il corpo alla fiamma, l'abbracciò in essa, si perdette, piena di gioia, avvolta tutta nel fuoco della fiamma e di porpora divennero le sue membra, tutte fuoco. E quando di lontano la farfalla saggia la vide divenuta una cosa sola con la candela e tutta luce, disse, lei sola ha toccato la meta, lei sola sa. Ma ha una morale, scusami Pietrangelo, però è anche una morale bruciante. La cultura brucia, il sapere brucia, cosa mi vuoi dire oggi? No, più che una morale è un comandamento, e cioè che più di sé è dimentico, quello tra tutti sa. E quindi, cara Alessandra, finché noi non dimenticheremo tutto ciò che è terreno e mortale, la nostra anima mai nulla potrà sapere dell'amata o dell'amato. Bruciamoci. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. I David di Donatella. Che poesia. Donatella, buongiorno! Buongiorno! Indovina dove trovo? Indovina dove sono? Dai, dillo! Dai. No, Donatella, io spero proprio che lei non sia dove penso. Benvenuto a tutti al Festival François de Cinéma de Cannes! Vi saluta la vostra Donatella! Ciao! Donatella, scherza, vero? Ma sei scema? Ho fatto 7 giorni di viaggio e adesso pensi che abbia voglia di scherzare? Ma lo sai che mi sono sbagliata e ho preso il treno per Cannes, in provincia di Barletta? Zitta, va? Non mi volevano neanche far entrare in Francia dopo, perché avevo la carta di identità un po' scaduta, tipo che l'avevo fatta a 16 anni, e la foto dice che non mi assomigliava tanto. Succede, immagino, Donatella, immagino. Non c'è bisogno che immagini, te l'ho detto io. Comunque, questo posto è bellissimo, e siccome non mi avete dato il tesserino per entrare, voi, io ho dovuto fare amicizia con Valeria Gallina. E chi è? L'attrice fidanzata con Marcio, dai, quella che sta nella giuria. Valeria Golino, Donatella. Vabbè, lei mi ha detto tutte le uscite di sicurezza per entrare nei cinemi e mi ha detto pure chi vince. Scusi, hai Donatella, capito? No, Donatella, mi scusi, ma come ha fatto a dirle il vincitore? Ah, hai la curiosità, eh? Un po' sì a questo punto. Te la tieni, perché ti dico il film che ho visto che mi è piaciuto un sacco. Ecco a voi il mago di Wall Street in carne ed ossa. Mi chiamo Lee Gates, benvenuti a Money Monster. Chi non rischia nulla, nulla guadagna. È meglio vendere? È meglio scaricare? Fuori le palle, fate gli uomini! Hai capito? Questo film si chiama Money Monster. Money Monster. Vabbè, c'è questo tipo che consiglia in TV come fare i soldi. Però un giorno uno gli si catacomba in diretta. No, non ho capito, che fa? Gli si catacomba in diretta, gli va in diretta lì e minaccia di fargli saltare il capoccione davanti a tutti. È divertentissimo, però la gallina dice che non vince proprio. Va bene, Donatella, chi è il favorito allora? Mio? No, Donatella, il favorito per la vittoria, Cannes. Ah, dice che sicuramente vince un film due palle con i sottotitoli cinesi, oppure uno dove c'è qualche tizio che parla con le piante, coi fiumi. Sai quei film dove non si capisce un dove non niente si capisce? Sì, Un po' vince il film di due fratelli francesi. Vuole dire Dardenne? Chi? Boh, non lo so. Donatella, comunque parlano bene anche del film di Almodovar. Di fronte? In che senso? Ne parlano bene solo di fronte, però ti assicuro che dietro li fa male. Ma lo sai che in concorso non ci sono né film né canzoni italiane? No, Donatella, scusi, abbiamo già detto l'altra volta che a Cannes non ci sono le canzoni. Scusa, ma ci stai tu o ci sto io al festival? Vabbè, ho capito, ma le canzoni... Non ci sono venuti, perché tanto vincono i francesi. Allora gli hanno detto, se ci hanno coraggio, di venire al Festival di Venezia, oppure a Sanremo. Dai, veniteci. Va dai, bene, senta, veniteci. Donatella, a questo punto oggi mi viene da chiederle se valsa la pena andare a Cannes. Certo, perché tu sei un po' invidiosa. Moltissimo. E io lo sapevo. Però ti dico che ne valsa la penissima. Ci sono un sacco di attori e poi sto imparando il francese benissimo. L'ho sentito prima, è proprio brava. Grazie. E l'unica cosa però è che nell'hotel mio non c'è il bidet. Vabbè, Donatella, grazie. Ma secondo te nell'hotel di Valeria Gallina c'è il bidet? Ed eccoci, musica con Franco Schipani. Buongiorno. Ciao Alessandra. Giovanni Allevi, Franco, ma lo sai che io ho una cosa che non capisco? Ma perché non è, diciamo che non è tanto simpatico a tante persone? Ma perché secondo te? Non lo so se questa cosa è vera. C'è qualcuno che dice, ma Allevi lo vedo un po' snobbino, ma scusa un attimo, questo è bravissimo, uno che si è diplomato nel pianoforte al conservatorio, poi in composizione eccetera, ma poi lui si è anche laureato in filosofia, pensa, con 110 su 110, con una tesi che si chiamava Il vuoto nella fisica contemporanea, cioè è l'immagine di quello che magari, sai, non ti voleva passare i compiti a scuola. Ah, dici che è quello? Secondo me è così, è tutta invidia. Beh, spesso, scusa. Comunque Allevi, che vuoi dire? Allevi. E allora, ragazzi, andatelo a vedere Giovanni Allevi. Questa sera all'Auditorium del Lingotto Agnelli, a Via Nizza 280 di Torino, alle ore, mi raccomando, 21 in punto. Cos'è? Irlanda? Siamo in Irlanda? Dove siamo? Siamo nel mondo della musica celtica con Alan Stivell, che è forse il massimo esponente di questo genere. Ecco. Lo dici proprio contento? Ma sì, perché mi dà felicità, mi fa sentire libero, mi dà questo evocativo e non lo so, sono felice quando la sento. Lo vedo, ti brilla l'occhietto, Franco, sì. Quindi quando arrivi tutto contento hai sentito musica celtica. A palla, ai semafori. Perfetto. Di Roma io metto musica celtica e dico guardate, tranquilli con i rossi, perché io sono qui e la sto sentendo e me la sto godendo tutta, e vi consiglio di godervela anche voi, perché c'è una bellissima festa che si titola Festa Celtica Mediterranea ed è domani all'Auditorium Parco della Musica Sala Sinopoli, mi raccomando, alle ore 21, tutti pronti a ballare con la musica celtica. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Vabbè, che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Bastava essere Marilyn Monroe per fare quello che voleva. Dice, sai che faccio? Canto anche. Anche sì, posso anche cantare. Ecco. Coperta di diamanti. Ma perché no? E tutti compravano i suoi dischi, lo sai perché li compravano? Perché? Per la copertina, è ovvio. Certo. No, ma la voce comunque è meravigliosa, senti come lo dice. Sì, ma anche questo perché è evocativa, quindi sai, vedi, a la saperlo senti, dire così, Franco. La senti, I wanna la vedi. Be loved by you, così però come lo dice lei, hai vinto. È facile essere, che vedi, I wanna be loved by you, magari, comunque... È ancora uno dei miti proprio dell'epoca d'oro di Hollywood, un'attrice di grande successo internazionale, ma anche una donna che, come tu sai, e nelle stesse sue parole lo ha detto molte volte, non si era mai abituata alla felicità, pensa. La Marilyn che conosciamo, quella dello schermo, quella che ricordiamo grazie ai grandi film che lei ha interpretato. A qualcuno piace caldo, te lo ricordi? E quello è meraviglioso. Un classico. Sì. Comunque la sua scomparsa, invece... è ancora avvolta nel mistero, e di questo mistero ci parla, e non soltanto di questo, Giovanni Minoli, restati in ascolto.